Va ora in onda Lucciole nelle tenebre, da un'idea del presidio universitario Libera Bologna. Alla riscossa stupidi che i fiumi sono in piena. Il grado di civilizzazione di una società si misura dalle sue prigioni. Fedor Dostoevskij. La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra. Articolo 27 della Costituzione italiana. Bentornati a una nuova puntata di Lucciole nelle tenebre. Parlo io, che sono la Bisa, insieme a... Pietro, piacere. Francesca, la Bisa ha dei problemi di identità, evidentemente, stasera. Ma non solo stasera, sono abbastanza... Tra l'altro, purtroppo, per fortuna, insomma, lasciamo decidere a voi tantissimi che ci seguite. Questa folla oceanica. Gente già che comincia a piangere. È l'ultima puntata che la Bisa farà con noi, perché va in Erasmus. Sì, vabbè, quindi... non penso interessi tanto alle persone. E detto questo, arriviamo all'argomento di oggi, che, come magari dalle frasi si è intuito, parleremo del carcere. Come lo parleremo, Pietro? Come lo parleremo? Dividendolo in due parti. Nella prima parte della puntata ci dedicheremo soprattutto ai diritti dei carcerati, che molto spesso, soprattutto in Italia, vengono assolutamente ignorati. Non rispettati e ignorati. E poi nella seconda parte invece ci occuperemo dei carceri collegati appunto alla criminalità organizzata, quindi alle mafie. Il 41 bis. E il 41 bis e dell'annosa questione se sia giusto o meno appunto questo regime di carcere duro. Però prima di tutto questo io lancerei una canzone. Tu la lanci? No, la lancio, non lo so. Lanciamo una idea? Canzone, mi fanno parlare a me per scarto. Lanciamo una canzone. Lanciamo... Com'è che si chiamava? Parole tue. Nella mia ora di libertà di Fabrizio De André. A dopo. Di respirare la stessa aria d'un secondino non mi va. Perciò ho deciso di rinunciare alla mia ora di libertà. Se c'è qualcosa da spartire tra un prigioniero e il suo piantone, che non sia l'aria di quel cortile, voglio soltanto che sia prigione. Che non sia l'aria di quel cortile, voglio soltanto che sia prigione. È cominciata un'ora prima e un'ora dopo era già finita. Ho visto gente venire sola e poi insieme verso l'uscita. Non mi aspettavo un vostro errore, uomini e donne di tribunale. Se fossi stato al vostro posto, ma al vostro posto non ci so stare. Se fossi stato al vostro posto, ma al vostro posto non ci so stare. Fuori dell'aula, sulla strada, ma in mezzo al fuori, anche fuori di là. Ho chiesto al meglio della mia faccia una polemica di dignità. Tante le grinte, le ghigne, i musi, vagli a spiegare che è primavera. E poi lo sanno, ma preferiscono vederla togliere a chi va in galera. E poi lo sanno, ma preferiscono vederla togliere a chi va in galera. Tante le grinte, le ghigne, i musi, poche le facce, tra loro lei. Si sta chiedendo tutto in un giorno, si suggerisce, ci giurerei. Quel che dirà di me alla gente, quel che dirà ve lo dico io. Da un po' di tempo ero un po' cambiato, ma non nel dirmi amore mio. Da un po' di tempo era un po' cambiato, ma non nel dirmi amore mio. Certo bisogna farne di strada, da una ginnastica d'obbedienza fino ad un gesto molto più umano che ti dia il senso della violenza. Però bisogna farne altrettanta per diventare così coglioni da non riuscire più a capire che non ci sono poteri buoni, da non riuscire più a capire che non ci sono poteri buoni. E adesso imparo un sacco di cose in mezzo agli altri vestiti uguali, tranne qual è il crimine giusto per non passare da criminali. Ci hanno insegnato la meraviglia verso la gente che ruba il pane. Ora sappiamo che è un delitto il non rubare quando si ha fame. Ora sappiamo che è un delitto il non rubare quando si ha fame. Di respirare la stessa aria dei secondini non ci va. E abbiamo deciso di imprigionarli durante l'ora di libertà. Venite adesso alla prigione, state a sentire sulla porta la nostra ultima canzone che vi ripete un'altra volta. Per quanto voi vi crediate assolti, siete per sempre coinvolti. Per quanto voi vi crediate assolti, siete per sempre coinvolti. E siamo di nuovo qui, Lucciole nelle Tenebre, e iniziamo con questa carichissima puntata sulle carceri. Ecco, questo è lo spirito, Pietro. O era la bisogna? Vabbè, uno dei due. Iniziamo dando una serie di numeri rappresentativi della situazione nelle carceri in Italia. I detenuti in Italia sono 65... No! Dai, sono... dai, allora, ce la no, fa, perché... ragazzi, ce la farà a dire questo numero. 65.701. E tutto ciò però in strutture che possano regolamentalmente contenere solamente 47.040 unità. Per quanto riguarda le regioni, diciamo, col più alto indice di sovraffollamento, al primo posto c'è la Puglia, che ha 4.145 detenuti a fronte di una capienza regolamentare di 2.459. Poi è seguita dalla Liguria e, ahimè, dal mio Veneto. Il suo Veneto. Mentre... profondamente... Per quanto riguarda invece i motivi per cui i detenuti sono in carcere, il 30% è detenuto per reati contro il patrimonio, quindi furti, rapine, truffe, estorsione, anche usura. Sono molto gettonati anche lo spaccio e l'uso di stupefacenti. E invece per quanto riguarda l'associazione mafiosa, la percentuale è del 2,7%. In tutto questo bisogna tener conto della grande presenza di detenuti stranieri, quasi 24.000. Di questi però soltanto la metà ha avuto una condanna definitiva. Per quanto riguarda il territorio, quindi Bologna, quindi la Dozza, bisogna tener conto che il sovraffollamento del penitenziario è dell'85%, quasi 86%, e quindi direi un numero elevato. Poi ricordiamo la condanna da Strasburgo di gennaio, in cui è stato appunto deciso che per 7 detenuti che ne avevano fatto ricorso gli fossero devoluti i danni morali, ed è l'ennesimo richiamo allo Stato italiano di prendere provvedimenti, perché le carceri, soprattutto di Piacenza e Busto Arsizio, che Busto Arsizio esiste, che non credevo, ciao Dave, mai, ciao Dave che a Parigi, insomma, sono le carceri, situazioni assolutamente non umane. Anche perché fa specie vedere che in carcere ci sono tantissime, appunto, persone che hanno, che sono dentro per reati minori e comunque ancora magari che aspettano la condanna, mentre poi rimangono fuori, vedi vari evasori fiscali o piuttosto chi fa comunque reati molto più pesanti e appunto non mette mai piede in carcere. quindi ad essere danneggiati poi risultano sempre solo, come al solito, i soliti noti, cioè le classi comunque più disagiate, quelle che forse lasciamo sempre più da parte. Infatti si può anche notare come nei dati penitenziari ci sia comunque una maggioranza, vabbè, sia di uomini rispetto alle donne, che anche e soprattutto di immigrati rispetto invece che a cittadini italiani. E tant'è che vanno ricordati anche i numerosi suicidi che ci sono dentro le carceri, e non soltanto quelli per i maggiorenni, ma anche le carceri minorili, perché spesso quando si tratta poi dei immigrati non sanno dove mandarli, quindi piuttosto li tengono in carcere per reati che non avrebbero come pena un tempo detentivo così prolungato nel tempo, appunto. Eh sì, l'altra cosa terribile è appunto come poi viene speso il tempo in carcere, perché molto spesso ci si ritrova nell'ozio più totale, senza proprio la possibilità di fare nulla, e a un certo punto diventa davvero alienante. E questo ozio però è imposto, cioè nel senso che è proprio il nostro approccio con la pena detentiva, che secondo me è comunque una faccenda scomoda, nel senso che da una parte appunto ti senti tirato dentro per il fatto che non puoi rimanere indifferente davanti a situazioni sociali comunque disastrose che porteranno per forza a una situazione di disagio, che non può che portare poi magari a un furto o a una rapina o a qualcosa che comunque ti conduca a poter finire in carcere. Sia dall'altra parte comunque appunto la necessità sociale di punire, e quindi il sentimento delle persone poi che appunto portino a raffigurare quella che è la situazione carceraria in una pena, cioè un castigo proprio. Però se posso, esistono anche degli esempi positivi, come il carcere di Padova, che ha fondato questa cooperativa, la cooperativa Giotto. E praticamente ci sono un gruppo di detenuti che ha una sorta di pasticceria all'interno del carcere, e fanno ad esempio i panettoni che sono buonissimi, e quindi ci sarebbero anche le possibilità appunto di operare sì, concretamente. Ma ci sono tanti esempi anche a Bologna, al Pratello, tutte le... ad esempio il gruppo di teatro, lo spettacolo teatrale, sì, che il Pratello svolge ogni anno, che comunque fa sì che le persone all'interno non si isolino completamente, esatto, ma poi anche vari, anche perché è un modo di conoscersi, no? Soprattutto le forme artistiche, ma anche vari, per esempio mi viene in mente un film che è uscito l'anno scorso, Cesare deve morire, che metteva in scena la tragedia di William Shakespeare del Giulio Cesare con una trasposizione com'è che si dice? Trasposizione una trasposizione completamente comunque riadattata alla nostra epoca, e una partecipazione attiva dei carcerati veri e propri che appunto facevano le varie parti all'interno del film. Oppure anche per esempio l'utilizzo di alcuni comunque criminali minori in alcuni film, quali per esempio Gomorra. Sì, sì, infatti gli esempi positivi ci sono e dovrebbero essere molti di più. Io direi che in questa nota positiva di interrompere il nostro dibattito e conversazione con una canzone. Quale? Lanciamo gli Strokes con Undercover of Darkness, e a seguire ci sarà un'intervista che abbiamo realizzato in compagnia di Michela Ferrari, che è una ragazza dell'associazione studentesca Progre. Bisogna dire che Progre ha realizzato alla fine del 2012 questo dossier sulle carceri, e una serie anche di incontri che si sono tenuti durante tutto il 2012, e una serie di iniziative che continuano anche per il 2013, perché Progre è un'associazione universitaria come anche la nostra, quindi ci siamo appoggiati al loro dossier e a questo progetto, che noi troviamo estremamente interessante. Michela ci racconterà della sua esperienza. Vai con gli Strokes. Ciao, siamo in presenza di Michela Ferrari, che è una ragazza di Uva Passa, che è un'associazione di volontariato che fa appunto volontariato all'interno del carcere del Pratello, e ci parla della sua esperienza con questa associazione. Ciao, allora io sono una volontaria del carcere minorile al Pratello, faccio parte dell'associazione Uva Passa, che appunto si occupa di entrare in carcere per organizzare delle attività ludico-ricreative o anche momenti di incontro con i ragazzi che sono appunto in carcere. E devo dire che io ho cominciato questa esperienza, diciamo, un po' per curiosità. Avevo voglia, diciamo, di vedere un mondo di cui magari si parla ma che in realtà non si conosce veramente. Ovviamente all'inizio c'erano molte paure, perché non solo hai a che fare con delle persone che sono, diciamo, ristrette, che sono appunto detenute, ma è anche a che fare con degli adolescenti e quindi con tutti i problemi di sorta. Non sai come loro possano accogliere la tua presenza, cosa possano pensare, hai paura, diciamo, che non vogliano, non siano interessate a quello che tu vai lì, non accettano, diciamo, l'aiuto di qualcuno, per quanto il nostro aiuto sia influente, diciamo, ai fini del loro percorso. Però devo dire che mi sono ricreduta molto velocemente, perché all'inizio ho notato subito un grande entusiasmo nei ragazzi alla nostra presenza. Ovviamente ci sono i problemi, perché magari tanti vengono da una situazione familiare, da una società comunque che non gli ha dato nulla, da delle situazioni molto delicate, e quindi fanno fatica a rapportarsi con altre persone o hanno comunque dei modi che possono sembrare un po' bruschi. Tuttavia, se riesci a instaurare un rapporto con loro, hanno molto, molto da dare e molto da insegnare, e infatti consiglio a chiunque, diciamo, sia un po' interessato a questo mondo di provare ad avvicinarsi a questo tipo di associazioni, a questo tipo di iniziative, e vedere se per loro ne vale la pena. Grazie mille Michela, a voi studio. Abbiamo sentito le parole della Michela, bentornati. Adesso invece vorremmo dedicarci a un altro aspetto delle carceri, cioè quello relativo al carcere duro, quindi al 41 bis, collegato appunto ai mafiosi fondamentalmente. Allora, innanzitutto il 41 bis. Abbiamo detto, insomma, come ha appena detto Pietro, che la forma di carcere duro che è una competenza da parte del Ministero della Giustizia di riservare una situazione di isolamento, e quindi con maggiori restrizioni di quelle che già un carcere, una detenzione priva il reo, il soggetto incarcerato, in contrasto, perché per un'associazione mafiosa, comunque un avvicinamento a tutto ciò che mini la sicurezza e l'ordine pubblico. Quando nasce il 41 bis? Allora, innanzitutto l'articolo 41 bis quindi riguarda quelle situazioni di emergenza introdotte già nel 75, però il 41 bis, come lo conosciamo attualmente, in realtà ha avuto la sua nascita soltanto dopo la strage di Capaci del 23 maggio del 92, dove appunto è morto Falcone, gli uomini della scorta, in cui appunto è stata la risposta, ecco, dello Stato a quelle stragi. Ricordiamo che poi il 41 bis è sempre stato oggetto delle trattative tra Stato e mafia, perché comunque è oggettivamente una situazione di isolamento, di restrizione e sconveniente. E detto questo, ricordiamo che comunque dall'interno del carcere e all'interno del carcere stesso c'è una situazione di monopolio da parte del potere mafioso, che permette ai detenuti di vivere in base alla loro accondiscendenza, simpatia o comunque interessi, di viverlo il carcere in un certo modo piuttosto che un altro, e anche di dare dei comandi all'esterno, quindi c'è comunque una sorta di comunicazione all'esterno. Sì, comunque la situazione del 41 bis, insomma, è un annoso dubbio, e anche noi personalmente io non so darmi una risposta, cioè ne abbiamo discusso anche prima della puntata, e appunto ci chiedevamo: ma quanto è giusto che queste persone rinuncino a così tanti diritti e vivano comunque nelle condizioni che la stessa Unione Europea, il Comitato Europeo, quando è venuto a visitare le carceri italiane, ha definito inumane? E poi dall'altro lato però c'è sempre il problema che si è visto anche in molti episodi del passato, molti mafiosi comunque riuscivano a comandare dal carcere, prima appunto del regime del carcere duro, riuscivano a comandare le organizzazioni a continuare a proliferare l'associazione. Quindi insomma io personalmente faccio fatica a trovare una risposta. Sì, ma anche perché le organizzazioni mafiose addirittura, cioè, comprendono all'interno della loro stessa struttura la possibilità del carcere, cioè nel senso che appunto sì, per i carcerati mafiosi comunque vengono previsti dei sussidi alle famiglie, sì. Cioè è una situazione che viene data per scontato da parte dell'organismo mafioso, e quindi è una risposta che effettivamente è risultata efficace da parte dello Stato. Tra l'altro di questi giorni appunto anche tutte le varie vicende di Provenzano, che è in carcere a Parma, continua a provare ad uscire dal carcere duro ogni volta con uno stratagemma diverso. Esatto. E però è proprio questo che alla fine ti divide, nel senso che proprio il fatto che un mafioso come quale Provenzano tenti in continuazione una uscita da questo dal regime di carcere duro non può che, cioè nel senso, non può che farti chiedere poi se effettivamente non sia poi efficace il 41 bis. Domanda non può che finire con dei dubbi. Noi cerchiamo di accompagnare le vostre domande come le nostre con una canzone tratta da un film molto carino che è Juno. La canzone si intitola Anyone Else But You. Alla prossima. Ciao. Ciao. You're a part-time lover and a full-time friend. The monkey on your back is the latest trend. I don't see what anyone can see in anyone else but you. I'll kiss you on the brain in the shadow of the train. Kiss you all starry-eyed, my body swinging from side to side. I don't see what anyone can see in anyone else but here is the church and here is the steeple. We sure are cute for two ugly people. I don't see what anyone can see in anyone else but you. Pebbles, forgive me, the trees, forgive me. So why can't you forgive me? I don't see what anyone can see in anyone else but I will find my niche in your car with my MP3 DVD rumble pack guitar. I don't see what anyone can see in anyone else but up, up, down, down, left, right, B-A start. Just because we use cheats doesn't mean we're not smart. I don't see what anyone can see in anyone else but you. Are always trying to keep it real. I'm in love with how you feel. I don't see what anyone can see in anyone else but we both have shiny happy fits of rage. You want more fans, I want more stage. I don't see what anyone can see in anyone else but Don Quixote was a steel driving man. My name is Adam, I'm your biggest fan. I don't see what anyone can see in anyone else but squinched up your face and did a dance. Shook a little turd out of the bottom of your pants. I don't see what anyone can see in anyone else but you.